X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Andrea Calogero Camilleri, siciliano di Porto Empedocle, 90 anni appena compiuti, scrittore, sceneggiatore, regista. Sposato da 60 anni con Rosetta, con l'età, dice, non è diventato più saggio, ma ha conquistato il buon senso e oggi capisce meglio le ragioni degli altri. Dopo un tempo infinito passato a fare l'insegnante in teatro, con i suoi libri ha conquistato un successo quasi planetario. E il suo commissario Montalbano, dopo gli scaffali dell'editrice Sellerio, ha rapito il pubblico televisivo italiano e non solo. Ha promesso di scriverne ancora, anche se la vista non lo aiuta più. Ma al suo compleanno erano in tanti a festeggiarlo in casa sua e in strada, in via Asiago, a Roma, dove lo abbiamo incontrato. Camilleri, un compleanno, quello dei suoi 90 anni, che non finisce più. Emozionato, no? No, il compleanno finisce. No, ma i festeggiamenti non finiscono più. I festeggiamenti continuano, ma dovrebbero terminare il giorno stesso in cui si fa il compleanno. Solo un giorno, insomma. Sì, perché poi ti cominciano a pesare gli anni. Ah. Cioè prima non li noti, no? Il giorno è festa, il giorno dopo li consideri. Ecco. È capitato anche però che sia venuta gente qui sotto casa, gente praticamente come una star dello spettacolo, del calcio. Ma che impressione ha fatto? È imbarazzante. No? È imbarazzante. Questo è francamente imbarazzante, perché ogni tanto mi capitano questi episodi di questo tipo, come il signore che vuole che io con un pennarello speciale gli scriva sul braccio la mia firma. Mm. Ecco, cose che riguardano più, che so, i due. Cioè l'emozione della rockstar proprio. La rockstar, appunto. E non... Però è un'emozione nuova. È un'emozione diversa, le emozioni sono sempre diverse, anche se fosse stata una sola persona invece che con centinaia che erano, le emozioni sono sempre diverse e sempre nuove, se Dio vuole. È vero che ha cominciato a scrivere dopo aver raccontato a suo padre sul letto di morte l'idea del romanzo che aveva in testa? E un giorno si ammalò, credetti fosse una malattia passeggera. Lo portai al gemello, invece gli diagnosticarono un tumore diffuso e non operabile, non c'era niente da fare, c'era solo da contare i giorni. Così io lasciai perdere qualsiasi lavoro e passai tutte le notti con mio padre, perché c'erano state delle cose da chiarire. Delle cose da chiarire, ecco. E così riuscimmo a chiarirle benissimo. E poi una volta papà mi disse: raccontami qualche cosa. Dico: papà, ho in mente un romanzo. E glielo raccontai. E papà mi disse: mi prometti che lo scrivi così come me l'hai raccontato? Così come l'hai raccontato voleva dire con l'italiano e il siciliano mescolato. Esattamente, come usavamo parlare in famiglia. In famiglia usavamo parlare così. Tutti i fatti intimi, affettivi, eccetera, erano in dialetto. Ma quando c'erano situazioni critiche si passava all'italiano. Andrea, te lo dico per l'ultima volta. Ecco, quello era preoccupante. È così che è nata la lingua di Camilleri, in fondo. Beh, di Montalbano, in parte, sì. Poi naturalmente sono andato a cercarmi le pezze d'appoggio. Certo. Le ho trovate in Pirandello, in altri, in Capuana, eccetera. Ed è per questo che l'ha dedicato a suo padre il primo libro? E non potevo non farne a meno, perché era una promessa che avevo fatto a lui e quindi che andava mantenuta l'anno seguente, l'anno dopo. Ma quindi è suo padre, in fondo, che le ha insegnato a essere la persona che è? Beh sì, e appunto sono le parole della dedica. Papà non mi insegnò mai nulla, non prese mai l'aria di chi vuole insegnare qualcosa al figlio. Le poche cose che volle insegnarmi non le imparai mai, sono stato da questo punto di vista un figlio terribile. Lui era un appassionato e grande giocatore di biliardo, mai preso una stecca in mano. Era il presidente dell'Empedoclina Calcio, mai giocato a calcio, mai interessato al calcio. Senta, ma prima del successo lei ha visto rifiutato i suoi romanzi molte volte. Ecco, quello più bruciante di rifiuto qual è stato? Quello proprio difficile da digerire. Ecco, E questo romanzo io lo feci leggere a quello che era un grande critico e amico mio, Niccolò Gallo. Finito che ebbi di scriverlo, nessuno sapeva che io lo avevo scritto. Con Niccolò ci vedevamo ogni sabato, glielo lasciai, abitava in Viale Parioli, glielo lasciai in portineria con due righe, un lunedì. Il sabato seguente non si fece vivo. Aia. L'altro sabato dopo neanche. Allora gli scrissi un altro biglietto, dico: Niccolò, se la nostra amicizia deve rompersi per via che ho scritto quel romanzo, fai finta di non averlo mai ricevuto. Mi telefonò immediatamente. Se l'aveva tutto annotato il libro, con note a fianco, su pezzettini di carta, eccetera, eccetera, e mi disse: riscrivilo. Io ti ho fatto delle osservazioni, stiamo un pomeriggio a parlare. Quando l'hai finito, me lo dai e fra un anno te lo pubblico io nella collana che dirigo con Vittorio Sereni. E Tornasole aveva già pubblicato. Vincenzo è finita Corso. L'amicizia lì? No, morì. Ah. E quando rispedì il romanzo a Mondadori, lui non c'era più, e dalla Mondadori mi venne risposto che era impubblicabile. Ah, perfetto. E poi invece è arrivata Elvira Sellerio. Ecco, ma chi è stato? No, prima è arrivato Garzanti. Ah, prima Garzanti. Sì. Poi è arrivato Leonardo Sciascia. Vabbè, che è quindi Elvira. E con Elvira, chi è stata Elvira per lei? Ho potuto parlare di Elvira dopo, un anno dopo la sua morte. Lo so. Prima non sono riuscito a parlare e per un anno non sono riuscito ad andare in Sicilia, perché sapere di arrivare a Palermo e non trovarla mi pesava troppo. Era inaccettabile per me. Capiva perché non riusciva a telefonargli. Perché non telefona Elvira? Ecco, questo credo che un'elaborazione del lutto difficilissima. È stata difficilissima. Non capisco. È detto che sia tutto elaborato. Lo capisco. Mi manca terribilmente. È una donna che lasciava il segno, ecco. Ma, su tutti i piani. Perché la cosa, come ho detto altre volte, era che eravamo amici veri al di fuori del rapporto, certo, editore-scrittore. Infatti, ho detto, anche se avessi fatto il rappresentante degli elettrodomestici, sì, saremmo rimasti amici. Sì. E poi lei ha detto una cosa bella che, conoscendola, mi ha colpito e l'ho riconosciuta: che Elvira era come una rabdomante, cioè sì, andava a colpo sicuro, sì, sì, aveva un fiuto assoluto. Assoluto, sì. Quello è un dono di natura. E quello ce l'hanno i veri editori. Ma mi racconta un episodio in cui il suo talento per lei è stato esplosivo, nella chiarezza. Ma l'episodio, devo dire, quella sorta di lezione, che non era lezione, perché via, non dava lezioni, come mio padre. E quando mi parlò della mia scrittura, del rischio della ridondanza barocca, diciamo, della scrittura, e che io ho preso parola per parola e che tuttora cerco di seguire. Cioè lì gli ha detto proprio, cioè le ha dato come una direttiva. Sì, cioè mi ha detto: sei al limite. Un po' di più di quello che fai debordi. Ho capito. Ecco, esci fuori dall'invaso. Dentro sei perfetto. Sei perfetto. Sì. Ecco. Ma e quando ha cominciato il suo successo? Sono arrivati naturalmente i corteggiamenti di tutti gli altri editori. Ecco, ma la Sellerio si è sentita un po' tradita? Ha mai avuto questa percezione? Non è stata una percezione, è stata una frase esplicita di Elvira. E un giorno entrò e lei disse: Ciasi chiude la porta, entra e chiude la porta, che segno che il discorso era serio. Entra e chiusi la porta del suo ufficio e mi disse: senti una cosa, verrà inevitabilmente il giorno in cui mi tradirai con un altro editore, però stai attento a una cosa: se mi tradisci con Marilyn Monroe non posso fare altro che alzare le braccia. Ma se mi tradisci con una squacquera qualunque, io mi arrabbio e molto. E qui finì il discorso. Ecco perché mi sentì in qualche modo perdonato. Perdonato. Se avessi. Cioè, un po' perdonato e un po' traditore, si è sentito anche o no? Certo. Certo. A proposito di tante cose fatte. Allora, lei praticamente, si sa, ha fatto praticamente di tutto. Ma è vero che fra le tante cose che ha fatto, con Angelo Guglielmi reclutava gli intellettuali, registi, scrittori, a suon di soldoni, che Bernabei dice andate, tornate, portateli a casa. Fu una missione ordinata da Bernabei. Perché allora la posizione, diciamo, degli intellettuali, degli scrittori... Certo, schifavano la televisione. Sì, ma proprio la snobbavano nel modo più assoluto. L'unico che aveva rotto un po' questa sorta di barriera era stato Edoardo. Certo. Con quelle commedie che avevo prodotto, certo, prodotto io, lei. E quindi voi avete avuto la missione di andare... con la borsa piena di soldi a reclutarli, è così? Oh, no, devo dire a onore degli intellettuali italiani che non tornammo col carniere vuoto. Insomma, sti soldi non servivano a niente. Non servivano a niente, non servivano. Devo dire sinceramente... C'è voluto tempo, adesso sono tutti lì che corrono. L'unico che accennò alla possibilità che forse poteva è stato Primo Levi, ma con molti forse. Senta, ma oggi secondo lei, vabbè, adesso corrono tutti, è un altro discorso. Adesso bisogna fermarli adesso. Bisognerebbe forse, diciamo, se ce l'avete una cosa gratis, forse te la danno. Senta, Camilleri, lei ha vissuto, ha 90 anni, ma ha vissuto alla grande, si parla del suo gusto per la vita, bere, mangiare, fumare come un turco. Insomma, gli eccessi mi pare di capire che fanno bene. Ma chiaramente forse avrò avuto un fisico di e ferro. Anche un chimico, diciamo, a questo punto, probabilmente che ha resistito a tutto questo. Infatti il dottore, quando mi visitano, ma lei fuma tanto, ma come mai non troviamo, non so, degli intoppi qui? Tumori da nessuna parte. Non so che dirvi. No, quindi fumare. E ci provano. Ci provano. No, a queste età se smettessi di fumare morirei immediatamente. Sicuramente. Ormai mi tiene in vita il fumo. Sì. Adesso che vede un po' meno, deve pescare più nella memoria? Cambia qualcosa? Rispetto alla memoria non cambia nulla. Dà molto fastidio non vedere o vedere pochissimo, vedere delle ombre, perché ti accorgi che l'immaginazione visiva delle cose reali è misera. Che mi immaginavo meglio quando vedevo. Cioè, invece così sforzarti di vedere ma che cos'è questo che poi è nabiro, è deludente. Senta, ma a proposito di misteri, 60 anni che è sposato con la stessa donna, segreto qui può servire a molti? Se c'è... credo che tutto il merito tutto, non dico buona parte, dico tutto il merito vada alla controparte. Cioè credo che ci sia voluta una grande dose di pazienza, comprensione e quindi amore per continuare a vivere con me per tutti questi anni. Perché tendeva al tradimento lei? Ma non è il tradimento. No, quello non conta. Conta o non conta? Ma secondo è l'importanza che gli dai, se non gli dai nessuna importanza non conta niente. Non incide. Beh, una bella filosofia, sì. Non incide niente. Ma quello che gli sbalzi d'umore, le giornate no, più questo, le giornate in cui vorrei essere solo, dico lasciatemi solo e se mi lasciano solo un attimo dopo dico per favore tornate qua. Ecco, cioè queste cose così caratteriali. Sì, sì. È molto morale lei? Sì. Molto? Sì. Tendo a non farlo vedere, ma in realtà lo sono. Luca Zingaretti racconta che quando lei insegnava all'Accademia, in realtà tutte le ragazze erano rapite dal suo fascino. sempre resistito alla tentazione. No, ma non contava, quindi insomma, contava poco, diciamo. Contava, no, e poi il rapimento di chi ti guarda non è detto che induca in tentazione. Per il mio carattere sarei portato a cadere in tentazione per chi non era rapita. Ah, ok, capitato spesso anche quello. Ma anche i Maschietti, sa, perché non mi chiede se cadeva in tentazione. Cadeva in tentazione con i Maschietti, no? Quello non avevo dubbi, non so perché. Senta, ma per Montalbano, Zingaretti, le è piaciuto subito o non le piaceva proprio? No, ecco, fisicamente non aveva niente. Certo, beh, quello è niente del capire. Mio personaggio, quindi per un attimo sono rimasto sbalestrato. Ma poi sapevo quanto era bravo, era stato allievo mio in accademia. Lo so. E l'avevo seguito anche nei primi passi che aveva fatto in teatro, perché mi interessava tanto come attore. Quindi mi sono tranquillizzato. Tranquillizzato, che consiglio gli ha dato? Certo, la prima inquadratura, a vedere la sua testa senza capelli. Un po' scioccato. Un po' scioccato, però poi si supera. Il consiglio non gliel'ho mai dato. Niente, una volta, eh? No, una volta mi telefonò dopo 3 o 4 giorni, senti Andrea, io ho dei dubbi, ma gli risposi malamente dicendo di non rompere, di fare il personaggio come pensava di farlo. Cioè di fare Zingaretti. Di fare Zingaretti, perché l'avrebbe fatto benissimo. Senta, a proposito di tradimenti, non tradimenti, che contano, non contano, però sto Montalbano è stata una grande delusione per molti quando ha tradito la sua fidanzata. Ma io Montalbano ho cercato di fare il più possibile aderente alla realtà come un uomo. Ma ci ha messo un sacco di puntate però. E vabbè, d'altra parte, malgrado tutto, è un casto, non è uno che... Quindi era una licenza poetica lecita. Una licenza poetica lecita, poi era una sorta di rivincita anche per un piccolo sbandamento di Livia, che se n'era andata su una barca con un cugino strano, eccetera. La colpa era di lei, insomma. Un po' tutto. Vabbè, una piccola vendetta, mettiamola anche così. Anche la crisi dell'età. Anche, Ecco quello, sì, certo. Incide molto? Incide. Sì? E qual è l'età della crisi? La più grande? No, non incide su me, credo che incida su... Su Montalbano? Non c'è nulla sull'età che abbia inciso su di me. No, perché non mi, nella vita non mi giunge nulla nel vivere, nell'esistere, non mi giunge nulla di nuovo. Cioè io so benissimo che sono nato e quindi devo invecchiare, ammalarmi, oppure star bene, e avere delle decadenze fisiche, intellettuali, arrivare a morire. E allora è inutile che tu dici, oddio, sono diventato vecchio, lo sapevi. Certo. Ti era stato detto già fin dall'età. All'inizio. Esatto. Senta, però c'è stata un'altra Elvira nella sua vita, se non sbaglio, una nonna, no? Che è stata Elvira. Importante perché nella sua vita di scrittore? Fondamentale. Io una volta ho scritto che non ho mai dedicato un romanzo a mia nonna Elvira perché forse i romanzi lei li ha scritti con me. Ah, addirittura? Sì. Perché è stata la donna che ha aperto la mia fantasia, che mi ha insegnato il gioco dell'invenzione fantastica. Ecco, che posso dire, il linguaggio. Lei, c'erano momenti in cui parlava un suo linguaggio, adoperava parole del tutto inventate da lei e figli, nipoti, eccetera. Dovevamo andare a cercare di capire cosa voleva dire. Cosa voleva dire? Parlava con gli oggetti, lunghi dialoghi. Dialoghi con gli oggetti, cambiando voce perché l'oggetto rispondeva. Una cosa è, sì, a lei. Una cosa è la sedia e una cosa è il pianoforte. Certo. E quindi cambiava tono di voce, timbro, la fantasia. Fantastico. Assoluta. Ma lei ha avuto un modello di scrittore che gli ha detto, ecco, io vorrei scrivere così. Il mio ideale di scrittura è un librettino piccolo così che si chiama I racconti di Pietro Burgo di Gogol. È quello? Quello. Perché? E perché per la natura dell'umorismo, per la capacità di costruire la frase e anche per una cosa, per il non perdersi nei particolari. Ma per un giallista Il particolare diventi sostanziale nel mondo, perché viene detto solo una volta e in quell'occasione lì e basta. E quello è il segreto del giallo anche. E quello è anche il segreto del giallo. Ma perché tutti i Montalbano sono lunghi uguali? Questo per un'idea di ordine interno. Ed è diventata una sorta di, come posso dire, di cartina di tornasole se il romanzo funziona o non funziona. Inevitabilmente ormai, quando Montalbano funziona, me ne accorgo dal fatto stesso che comincio a capire che starò dentro quelle pagine. Magari ne scriverò una in più che sarà facilissimo eliminare e far tornare. Certo. Quindi nella fantasia della creazione, della costruzione del giallo, in realtà c'è un che di cartesiano assoluto. Sì, ma come nella musica, sì, no? Esatto, come nella musica. Come nella musica. Esattamente. Ma è vero che l'ultimo Montalbano l'ha già scritto, gliel'ha dato Elvira prima di morire? Io l'ho dato Elvira quando ho compiuto 80 anni, cioè 10 anni fa. Mi venne in mente come far finire Montalbano. Sì. E siccome avevo 80 anni e pensavo di cura d'Alzheimer... Allora lo scrissi immediatamente e lo diedi a Elvira, la storia della cassaforte era leggera. Vabbè, certo. Ecco, e da lì giace. E giace e come finisce? Non si sa, non lo vedremo. Posso dire perché è un metaromanzo. Cioè il personaggio finisce con l'essere personaggio. Cioè, quindi ha costruito un giallo intorno al giallo dell'ultimo romanzo di Montalbano. Sì, cioè, ma diciamo, marketing strategico di altissimo profilo. No. non è una strategia, assicuro che è involontario. Cioè, nel senso che. Ce l'ha nel sangue, vuol dire. L'ho scritto per timore di dimenticarmi cosa mi era venuto in mente. Certo. Senta, ma la sua idea della fede è cambiata oggi? No, cioè, non è cambiata. Cioè, ma io non sono credente. Cioè, in Dio non ci crede? No, sinceramente. Finisce tutto con la morte? Sì, credo che finisca tutto. Credo, perché vede, avere queste certezze assolute. No, ma è una domanda. Io non ce l'ho mai avute. Io penso, forse mi sbaglierò, che finisca tutto. Diciamo che c'è il giallo della morte, però sì, può restare un punto interrogativo. Certo, quello sì, il punto interrogativo c'è ed è enorme. A me viene da ridere che c'è una cosa di Achille Campanile, geniale, no? Vede, signori, io sono un uomo torturato dalle... Sono un ateo torturato all'idea che Dio esiste, lo dice a me, e sono un credente torturato all'idea che Dio non esista. Ecco, sono un po' in questa situazione. Grazie mille. Grazie. Mix 24. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, insomma un tributo dovuto a Camilleri, che dici? E oltretutto con quella voce che scava ben oltre l'età, la saggezza, l'arguzia e la potenza della commedia, che è il vero metro d'Italia. Vero, grande commediante in tutti i sensi. Che dici, Mario? Non è che mi è piaciuta la frase "immaginavo meglio quando vedevo". Forte. La canzone di Pietrangelo. Cos'è? cos'è ma Pietrangelo oggi? E oggi perché la giornata comincia bene, la settimana ancora meglio, il sentimento non è mai muto e le orchestrine scendono dai tetti dove hanno accompagnato la notte insonne degli innamorati ed è stato tutto un traffico di tappeti volanti che non vuole saperne di finire ancora adesso, se guardate alla finestra se, si vedono come si muovono. E dunque l'Ancillotto ha chiamato stamattina al centralino e ha voluto dedicare a Ginevra questo brano dei Pallet con una dedica. Dice l'Ancillotto a Ginevra: la nostra Camelot è la Persia. I Pallet. Mario, scendiamo dal cielo sulla terra. Io stavo già sul tappeto volante. Stavi posso uscire tappeto... a vedere se ne passano un paio. Passi sul angelo. Tappeto volante. E la tua bolla cattiva e la tua pelle, la realtà cattiva, senti. Bill Conti. Beh, allora, scendo dal tappeto volante che buon Pietrangelo aveva dispiegato, vi faccio andare sugli altiforni dell'Ilva, produzione di acciaio, per informarvi che in 9 mesi hanno bruciato 400 milioni. Da luglio a settembre questi perdono 50 milioni al mese. Parliamo dell'acciaio, una storia che comincia nei primi anni del Novecento, nel 1905 per l'esattezza. La realtà è che oggi la produzione di Ilva non ha arriva a 5 milioni di tonnellate all'anno e ha un break even, cioè un punto di pareggio di 8 milioni di tonnellate. Ora, questa era un'azienda, perché le cose vanno dette tutte, che prima dell'intervento della magistratura produceva utili, aveva posti di lavoro sicuri, oggi brucia cassa. Inquinava anche. Certo, non ci sono dubbi, ma insomma, da qui a sfasciarla tutta ce ne passa, questo certo. Voglio dire io. Allora, forse è il caso di cercare di capire cosa noi vogliamo fare dell'acciaio, perché la produzione di acciaio è la storia, è la tradizione di un pezzo importante dell'industria italiana, nonché della produzione industriale che in questo paese... Ma insomma, non ce n'è troppo di acciaio in giro? Quello dell'Ilva è di grandissima qualità in realtà, gli stabilimenti sono tra i migliori del mondo, non si capisce perché noi non dobbiamo andare bene. La mia domanda è cosa vuol fare il governo? Perché questo non è chiaro, perché è già stato ammesso, come dire, al lavoro un gruppo di lavoro a Palazzo Chigi che mi pare che però... Insomma, però se tu hai una... Chi gestiva quel gruppo di lavoro è andato via. Parliamo di 15.000 dipendenti, l'unica cosa seria che c'è in quella zona, quasi. Insomma, non lo so, mi sembra che si stia lasciando scivolare questo tema così, ed è il mezzogiorno poi. Naturalmente. E quindi, infatti ne parleremo poi a lungo. Che volete fare? Ecco, ce intanto, lo dite? Intanto io invece voglio parlare un secondo e farvi una domanda sulla Siria, perché noi ne abbiamo parlato molto della Siria, adesso di Siria ne parla anche Assad, il presidente, ne parla alla televisione iraniana e Assad dice: se serve io sono pronto a farmi da parte. Ecco, è uno scenario credibile di Assad che è pronto a farsi da parte, è un'arma in mano a Putin per trattare in qualche modo con gli americani e i francesi che fare, oppure è un bluff? Secondo te, Pietrangelo? Secondo me il rapporto di forza è gigantesco, nel senso che sia la Russia che l'Iran hanno tutte le carte per convincere Assad a mettersi da parte, anche perché Assad in carica sarebbe continuamente un bersaglio continuamente a disposizione degli americani, dell'Occidente e di chi invece vuole portare il caos. E quindi in qualche modo lo capisce che è necessario. Diciamo che da un lato c'è la minestra e dall'altro lato c'è la finestra. Quindi. No, sei d'accordo? Sì, minestra e finestra per Assad. Sono d'accordo con Pietrangelo, il futuro di Assad è nelle mani della Russia sicuramente, non certo della Casa Bianca, questo è un po' come sicuro. Certo. C'è anche un altro aspetto, io come ti dicevo prima della trasmissione mi sono riascoltato con attenzione l'intervento di Putin alle Nazioni Unite. E beh, insomma, l'ho trovato di grande lucidità, insomma, credo che abbia le idee molto chiare su cosa fare in quella nell'area, in quella, nel Medio Oriente, sì. Ecco, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS Salamino. Non solo la Germania come già aveva detto Matthew, cioè ma Matteo Renzi, non Matthew. Solo la Germania, perché sono happy le news, giusto? Happy? Happy, un po' più aspirata. Aspiriamo, perché siamo in Calabria. Allora, non solo la Germania, supereremo tutta l'Europa, così ha detto Matteo Renzi, ma perché mai, perché mai, perché mai, un perché, questo perché, una risposta ce l'ha, per questo motivo. Italia di Matteo Renzi, che marcia spedita verso i paradisi di gloria, di ricchezza e di buona salute. Perché? Allora, l'IRES è ridotta già nel 2016, ma anche l'INES, cioè l'imposta nazionale dell'economia sommersa, e quindi l'imposta nazionale dell'economia sommersa prevista per magnacci, prostitute, topi d'appartamento, borseggiatori, borsari neri, accattoni e di vario genere, non dovranno pagare la tassa INES, bensì ci saranno detrazioni per chi? Per chi le detrazioni? Apriamo cucina gas, fronte gas, abbiamo tutti i bei pezzettoni di ricambio per la vostra cucina. Apriamo cucina gas, fronte gas, abbiamo tutti i pezzi di ricambio per le vostre cucine. Ecco, detrazioni sulle cucine a gas, tutte arriparate dalle manine delicate dello stesso Matteo Renzi, che verrà casa per casa, casalinghe, preparatevi ad accogliere Matteo Renzi, che verrà ad riparare le cucine a gas. È utile. Sulla bolletta della luce, c'è anche la riparazione. Sulla bolletta della luce, invece, Giovanni, cosa succede? Ci sarà. Bolletta della luce ci sarà, Giovanni, ci sarà, è un'idea tua, no? Ma vabbè, non importa, ci sarà il canone Rai. Oh, non sarà la Germania, ma tutta l'Europa sarà superata, e quindi di conseguenza, Mario, tu che sei economo ed economista allo stesso tempo, di conseguenza cosa succederà? Dato che supereremo la Germania, supereremo l'Europa, spezzeremo le reni a tutti, cosa succederà? Ciuffi di PIL, cioè di prodotto interno lordo all'evapilo. Matteo Renzi assicura: abbiamo stimato una crescita del PIL allo 0,9, che è, come dire, già 1. Quindi Renzi arriva a 1. Poi dice che dalla Svizzera torneranno 5 miliardi. Lui l'ha detto, gliel'ha rivelato in sogno Licio Gelli. Mentre tutti questi numeri in Matteo Renzi hanno provocato un turbamento, diciamo, d'algoritmo. Io ho beccato l'algoritmo, lo volete sentire? No. 18. È stato un weekend 18, faticoso, 18, quello di Pietrangelo. Ha cominciato 18, bene il lunedì. Oh, ma cioè, Licio Gelli gli va in sogno e gli dice quelle cose. Poi invece questo gliel'ha rivelato a Matteo Renzi direttamente il mago Zurli. Allora, poi dice le cose che è un paese meraviglioso. Perché non pagheranno la cosiddetta digital tax? Dimmi tu questo. La digital tax invece non la pagheranno né Google né Facebook né gli altri giganti di internet. No, ma in Europa adesso la metteranno. La metteranno. Oh, non sia mai che Renzi faccia fare arrabbiare la signora America. Non lo farà mai, perché questo, insomma, è pur sempre. Mario, dopo questa lezione, ma diciamo, ma non hai citato Dennis. Ma tu ce l'hai sta bolla, Mario? Forza, Dennis sarà qua domani. No, viene domani. Cosa sulla Germania? L'immigrazione, giusto per far capire che la portata del dibattito italiano sul tema è veramente piccola, misera, una cosa che non sta in piedi per la dimensione che ha invece in altri posti. Beh, secondo la Bild, che cita un rapporto confidenziale, i profughi immigrati che andranno in Germania nel 2015, cioè quest'anno, cioè tre mesi per essere chiari, saranno 1,5 milioni. Si proiettano cifre di 7-10 mila arrivi al giorno. Questa è un'emergenza, non quello di cui stiamo parlando nel nostro paese. È prima della viabilità, adesso, come tutti i giorni, con il professor Roberto Bernabei, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. New England Journal of Medicine, del 10 settembre 2015. Il selvaggio West della medicina. Le cliniche non autorizzate per la terapia con le cellule staminali negli Stati Uniti. Allora, professor Bernabei, che cosa ci insegna questo articolo di New England? Ma ci insegna una cosa importante, che già il titolo ci cautela: il Far West delle cellule staminali. Tutti quanti crediamo, perché siamo bombardati dalla stampa, che le cellule staminali risolveranno tutto, forse, ma ad oggi ancora bisogna stare molto attenti e ottemperare quelle che sono le regole che ha stabilito l'FDA, cioè l'organo istituzionale americano che presiede a tutte le terapie, che dice ad oggi le cellule staminali si utilizzano solo per limitatissime malattie ematologiche o del sistema immunitario. Mentre invece il New England ricorda come sono proliferate centinaia di cliniche che furbamente, senza dire che risolvono il problema, ma dando speranza, ti innescano e ti inseriscono in protocolli in cui le cellule staminali vengono somministrate, facendo una furbata, perché siccome la legge non prevede controindicazioni, dicono: ti prendo le tue cellule adipose, il grasso, estraggo le tue cellule staminali dalle cellule adipose e te le reinietto. Insomma, quindi faccio una cosa un po' casalinga, ma di tutta roba tua, e quindi non incorro negli ostacoli che la legge invece prevede quando vengono iniettate cellule staminali di altre persone. Ma il fine, la parola ultima dell'articolo, è che tutto questo non ha autorizzazioni, non abbiamo nessuna certezza sugli effetti e soprattutto non sappiamo cosa a lungo termine questo tipo di furbizie non certificate possano dare. Ancora una volta il Far West che gioca sulla speranza della gente che ha problemi, la speranza di guarire rispetto a problemi altrimenti non risolvibili, deve essere fermato e cautelato. Mix 24. Il canzoniere. E non potete voi, per via indiretta, trargli di bocca la causa di quello stentato vaneggiare che gli strugge la pace dei suoi giorni in una così pericolosa e turbolenta pazzia. È sconvolto, ma non vuol dire la ragione a nessun costo. È un pazzo furbo, svicola sempre. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, in attesa delle vostre telefonate. Mario, l'ultima bolla? Ma mi è venuta in mente, vedendo i titoli su Verdini, Renzi stamattina sui giornali, una canzone molto bella, senti. Remixata. Giusto così, secondo me, no? Sì, perché... gioco parlamentare. Perché ha fatto un gruppo e gli hanno fatto una domanda, ha risposto Renzi. Stamattina vedevo un po' di cose, agitazione. Perché? Perché non si agitazione? Beh, perché, perché Verdini appoggia la maggioranza. Vabbè, quello mi sembra chiaro. Non è una notizia. È capitato da un po'. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666. Abbiamo qualche telefonata? Non ci sono telefonate, non li... dagli un aiutino, un aiutino subito. Dai. Allora, la voce che avete sentito non è la voce maschile, intendo, non è quella di Carmelo Bene. Oh, va bene, questo è l'aiutino che... io non ho capito. 800 24 00 24, numero verde, lo ripeto, 349 238 6666, l'SMS. انا في وسط الجماهير وسنقاتل وسنهزمهم اذا ارادوا ان يمسوا باي. Lotteremo, lotteremo fino a riconquistare ogni pezzo del territorio della Libia. Sconfiggeremo tutti, come abbiamo fatto con il colonialismo italiano. Sconfiggeremo tutti. Ecco la forza che non può essere sconfitta. La forza del popolo, la forza delle masse, dei giovani. Giovani, sentitevi a vostro agio dappertutto, nelle piazze, nelle vie. Ballate, cantate, vivete tranquilli, con il morale alle stelle. Muammar Gheddafi è uno di voi. Non è altro che uno di voi. È Muammar Gheddafi che incita la folla dei suoi fedelissimi, e il 21 febbraio del 2011, 7 mesi dopo, il dittatore libico viene catturato e ucciso. Da allora la Libia è nel caos. Quello che a mio giudizio è importante evitare è che si ripeta una Libia bis, perché in Libia all'intervento armato non ha fatto seguito una scommessa politica e stiamo pagando i costi della destabilizzazione di quell'area. Così Renzi a New York per la 70ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Ma oggi la Siria rischia davvero di diventare una Libia bis? Il nostro Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, con questa pungente battuta abbia sottolineato una cosa: non bastano i bombardamenti, soprattutto poi quando sia gli Stati Uniti che la Russia non si capisce veramente bene che cosa vogliono fare. Bisogna farsi una domanda sul dopo: che cosa vogliamo fare della Siria? Ma è Putin il dominus della guerra in Siria? Non credo. Credo che Putin sia intervenuto, almeno per quanto ne so io, per sostenere un Bashar Assad che era ormai ai limiti ed è ormai ai limiti della resistenza. Ma possiamo davvero pensare che la Russia si possa, come dire, infilare in un nuovo Afghanistan? È difficile. Assad può fare la fine di Gheddafi? No, non credo. Penso che la storia sarà molto lunga. Come dice qualcuno, forse ci vorrà ancora tanto tempo, ancora tanto sangue. Negri, ma la sostituzione di Leon con un tedesco come guida della missione ONU significa che la Merkel mette un'opzione anche sul petrolio libico? Direi che la Merkel e la Germania vengono premiati per il loro atteggiamento avuto durante la guerra libica, cioè si erano opposti a un intervento militare in Libia, avevano rifiutato di partecipare alla missione internazionale, mentre l'Italia, che era stata accolta in contropiede, ha poi dovuto partecipare a quella missione militare che poi ha condotto al disfacimento della Libia medesima. Gheddafi, tutti i volti del potere, rivelazioni, misteri, provocazioni e poi il giallo della morte. Tra pochi minuti qui a Mix 24 dopo il giornale radio.